24 Mattino. Da questo video notiamo la differenza tra la Lega Veneta e la Lega Lombarda. Se fossi stato un elettore Lega, sicuramente chiederei un cambio di leadership. Sicuramente Zaia negli ultimi periodi si sta dimostrando una persona molto più seria e competente. Buongiorno Simone, oggi è mercoledì e io ancora non ho visto la cassa integrazione, ad esempio. Ma se il mio capo non provasse a non pagarla, voglio vedere in quanto gli arriva il cartellone esattoriale. Sai Simone, piuttosto che vedere la gente dormire in Parlamento, è meglio vederli che mangiano le ciliegie, almeno. Se una giunta comunale legifera, vota, che non vuole qualcosa tecnologicamente magari avanzato, che apporti migliorie nel proprio territorio, qual è il problema? Ah, su quest'ultimo punto, sul tema del 5G, non lo so, può darsi anche che non sia un problema. Io sono abbastanza convinto che nel momento nel quale i cittadini dei comuni no 5G vedranno come funziona il 5G nelle altre città, inizieranno a dire: beh, amico sindaco, mettilo anche da me, ritira l'ordinanza. E voglio dire all'ascoltatore che dice, che mi scrive invece, che parla di una sorta di disprezzo per il principio di precauzione. No, non è un disprezzo per il principio di precauzione, dico semplicemente il 4G l'abbiamo fatto e non vedo perché non andare incontro anche a questo avanzamento tecnologico, tanto più che gli studi che sono stati fatti e che sono ovviamente ancora scarsi perché è una tecnologia nuova, per carità, non indicano particolari rischi. Il paragone, lo dico ad un altro ascoltatore, il paragone col tema dell'Eternit, dell'amianto sul principio di precauzione, francamente non regge, non lo vedo in tutta sincerità, stiamo parlando di cose completamente diverse. Gli studi comunque non sono assolutamente conclusivi, non dicono, cioè non parlano di rischi, quindi insomma, ripeto, non vedo il problema. Pronto a ricredermi se mi porterete le prove scientifiche che il 5G fa male. Sulla questione, vedo che vi scaldate un po' sulla questione delle ciliegie di Salvini, che le mangia queste ciliegie, mentre Zaia parla dei bambini morti nel punto di neonatologia di Verona. Meglio le ciliegie che dormire in Parlamento, dice un'ascoltatrice, sì, insomma. Diciamo, non era una bella scena dal punto di vista istituzionale. E poi la cassa integrazione. Oh, caro amico ascoltatore, hai perfettamente ragione. Come è andata questa vicenda della cassa? È, sinceramente, per come la vedo io, scandaloso. È scandaloso come è andata questa storia della cassa. E poi, per carità, l'INPS è stata investita un numero di richieste assolutamente impensato. E però. Ormai sono 2 mesi, ragazzi, e non sappiamo nemmeno, non abbiamo nemmeno la certezza sui numeri, non sappiamo i numeri. Va bene, è la seconda parte di 20, così fa per dire. È la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:23 minuti e 40 secondi. È mercoledì 17 giugno e andiamo come sempre a dare un'occhiata innanzitutto alle prime pagine dei quotidiani, che oggi sono varie, su vari argomenti. Il Sole 24 Ore, per esempio, apre sulla Federal Reserve, che dopo gli interventi varati fa correre le borse. La Fed lancia le borse, Wall Street più 1,8%. E a centro pagina le parole di ieri del presidente della Consob, Savona, BTP di guerra per rilanciare il paese. Spazio anche alla politica economica italiana, in vista dell'incontro di oggi agli Stati Generali tra i vertici di Confindustria e Conte. Il cuneo fiscale è una zavorra, poco attenti alle imprese, la denuncia del presidente di Confindustria, appunto, Bonomi. L'Avvenire e il Quotidiano Nazionale ci portano sui nostri ragazzi, ed è con questo che apriremo tra un attimo la rassegna stampa. Passi indietro, l'allarme dell'ospedale Gaslini, ansia e regressione per i bambini senza scuola. Il Quotidiano Nazionale, la maturità che spaventa solo i professori. Oggi l'esame di Stato, distanziati con mascherina, ma tanti docenti hanno rinunciato per paura, altri sono stati precettati. Sul fronte economico anche l'apertura del Corriere della Sera, che parla di 1 milione di posti di lavoro a rischio, secondo quanto dicono Confcommercio e le piccole imprese che vanno in pressing sul governo. Il Messaggero si dedica ad Alitalia, per la quale si parla di una ripartenza, con uno scoglio che ha a che fare con gli esuberi e, diciamo, anche con i nomi di chi deve andare alla guida della nuova compagnia che parte con una dote di 3 miliardi di euro. Atlantia e migranti, vince Di Maio è il titolo della Stampa. Conte chiude il dossier autostrade nel capitale F2I e CDP e scatterà la revoca della concessione. Il Fatto Quotidiano si dedica invece alla Lombardia, comuni chiusi, anzi no, ha un audio incastra Fontana, è un vertice del 23 febbraio sulla zona rossa, però attenzione che non si parla di Alzano e Nembro, ma di 9 paesi fra Lodi e Cremona che si sarebbero dovuti aggiungere appunto alla zona rossa. Caccia al tesoro il titolo del giornale sui soldi dal Venezuela, sui presunti soldi dal Venezuela, giornale che ci fa sapere che in apertura che indagano i pubblici ministeri. Per Libero il governo rotola, per La Verità Conte rimanda l'Italia a settembre. Il Manifesto ha un titolo molto bello, Oltre la siepe, ed è un titolo accompagnato dalla foto delle mani di Abubakar Soumahoro, il sindacalista dei braccianti, che dopo essere stato davanti all'edificio nel quale si stanno svolgendo gli stati generali praticamente per tutto il giorno, è stato poi ricevuto dal presidente del Consiglio Conte, e sono mani che lui ha deciso di legare con 2 catene ed un lucchetto. Oltre la siepe, appunto, il titolo del Manifesto. Come vi dicevo, vorrei iniziare oggi dai ragazzi, dai bambini, tra l'altro appunto in una giornata particolare, quella di oggi, perché è la giornata che segna l'inizio degli esami di maturità in questa forma così strana. Ed è sulla pagina 7 di Avvenire che vi voglio portare con Fulvio Fulvi, che Avvenire decide di aprire con questa ricerca della quale troviamo qualche piccola traccia anche su altri quotidiani, e però è una ricerca interessante perché ci dà lo specchio di quello che è successo ai bambini e agli adolescenti durante questo periodo di lockdown, l'impatto psicologico che questi 2 mesi di lockdown hanno portato. È una ricerca appunto dell'Istituto Gaslini di Genova. Che cosa racconta? Sbalzi d'umore, maggiore irritabilità, attacchi d'ansia soprattutto per il timore dell'abbandono, inquietudine, una sensazione di mancanza d'aria o fiato corto, ossessione per la pulizia, alterazioni del ritmo del sonno causati dalla paura del buio, difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni, scombussolamento degli orari. Il 65% dei bambini sotto 6 anni e il 71% dei ragazzi fino a 18 hanno avuto problemi comportamentali e sintomi di regressione. Questa è l'eredità che lasciano questi 2 mesi. Colpa dello stress, ma non solo, l'impatto psicologico della pandemia da Covid-19, insomma, per la maggior parte delle persone minorenni che vivono nel nostro paese è stato devastante, raggiungendo un livello di disturbi e patologie legato strettamente al malessere psichico manifestato da mamma e papà alle prese con l'emergenza coronavirus. Appunto, è quel che emerge dai risultati di questa ricerca del Gaslini, del quale a pagina 7 il Quotidiano Avvenire ci riporta. Vi ricordate che ieri ci siamo occupati anche di altro, e sempre di quello che ha a che fare con i nostri figli, con i nostri ragazzi, che è appunto la questione dei maltrattamenti in famiglia che sono spesso aumentati. E proprio a proposito di questo, in questa giornata così particolare che appunto segna l'inizio della maturità, fatta in presenza ma fatta in questo modo strano, no? Con colloqui di 60 minuti, alla scuola è dedicato l'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera, lo firma Carlo Verdelli. Se il governo si togliesse per un attimo la mascherina dagli occhi, vedrebbe subito l'iceberg al quale sta andando incontro, una specie di iceberg fantasma a cui nessuno sembra dare eccessiva importanza. Si parla della scuola e sembra un divagare. Dal lavoro alle imprese, dalla sanità ai diritti civili, dal debito pubblico che cresce alla competitività che cala, le emergenze lasciate in dote da una reiterata gestione irresponsabile della cosa pubblica sono esplose tutte insieme sotto la furia demolitrice del Covid. E adesso si cerca di correre ai ripari, mettendo pezze dove si può, convocando improbabili stati generali invece che in Parlamento, nella Silvestre Villa Panfili in Roma, articolando piani di rinascita. Ma l'iceberg scuola avanza verso la nave Italia a una velocità spaventosa, nella colpevole incuranza generale. È l'unico settore per il quale non è ancora stato previsto nemmeno un protocollo per la ripartenza. 8 milioni di studenti aspettano da inizio marzo una qualche prospettiva per il ritorno in classe. Prospettiva che non arriva, dice Carlo Verdelli, che in questo lungo editoriale chiude così: all'alba della nostra Repubblica un padre della patria come Pietro Calamandrei disse parole definitive sulla questione. Se si vuole che la democrazia prima si faccia e poi si mantenga e si perfezioni, si può dire che la scuola, a lungo andare, è più importante del Parlamento e della magistratura e della Corte Costituzionale. La scuola è più importante, conclude Verdelli, anche se da Villa Panfili e dintorni non si direbbe. E infine una piccola storia, tutta da verificare per carità, però è un po' quello che consideriamo lo spirito italiano. È una storia che ci prendiamo sempre dal Corriere della Sera. A pagina 27, lo spirito più deteriore naturalmente dell'Italia, c'è anche lo spirito meraviglioso, Un consiglio di classe riconvocato in fretta e furia dopo la consegna delle pagelle per correggere due voti. Lo si potrebbe definire solamente un caso raro, non fosse che il padre del ragazzo in questione è il sovrintendente scolastico della provincia di Bolzano, il quale, secondo il racconto che arriva dal consiglio di classe, per carità, tutto da verificare, lui si difende, dice cose diverse, avrebbe fatto una telefonata al dirigente scolastico per far sì che al figlio al quale erano arrivati un 6 e un 7 sbagliati, insomma questo 6 e questo 7 si trasformassero magicamente in 2-8. Il protagonista si chiama Vincenzo Gullotta, nato a Catania 50 anni fa, curriculum ricco di titoli ed esperienze universitarie, carriera lampo, l'assessore alla scuola italiana dell'Alto Adige Giuliano Vettorato lo ha voluto al vertice della sovrintendenza, scelta validata dall'ex ministro dell'istruzione Marco Bussetti. Ora però è arrivata la buccia di banana, questa telefonata che fa sollevare molte perplessità, e Gullotta dice: no, guardate, non è assolutamente così, sono accuse false. Comprendo la divergenza di opinioni e le critiche sull'operato professionale, ma ritengo scorretto strumentalizzare la famiglia. Ho intenzione di tutelare mio figlio, la mia famiglia e me stesso, valutando anche di intraprendere le azioni legali del caso. Vedremo come andrà a finire e se andrà a finire. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. Ed eccoci, Paolo Mieli, buongiorno. Buongiorno, eccomi qui. Buon mercoledì. Inizierei dai programmi del governo, che si allungano un pochino, si va a settembre. Guarda, a me a questo punto c'è una parola che mi allarma, che è concretezza, nel senso che il primo giorno degli stati generali, sia il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, sia il Presidente della Repubblica, hanno detto: beh, insomma, qua ci vuole concretezza. Da quel giorno tutti hanno capito che basta pronunciare questa parola e si evita proprio di entrare nel merito di programmi di cui uno veda la scadenza. Quindi uno basta partecipare a questo dibattito pubblico e poi chiuderlo pronunciando la parola concretezza, ed è, anch'io sono molto allarmato da quello che hai notato tu, che il Presidente del Consiglio ha annunciato che il vero piano, il recovery italiano, sarà fatto in autunno, e quindi significa che le scelte, ancora una volta verranno le scelte di fondo, forse anche la scelta del MES, se prenderlo o no, questi 36 miliardi del MES, vengono rinviati in autunno. È vero anche Paolo che hanno fatto in Francia, hanno fatto un'operazione simile, hanno deciso di rimandare il grosso delle decisioni a un momento, darsi un momento per elaborare una strategia più profonda. Hai ragione, però è vero anche quello che leggo sulla prima parte, la prima pagina del Sole 24 Ore, che la Fed negli Stati Uniti lancia le borse, Wall Street ha più 1,8, i consumi ripartono, boom delle vendite, 17,5 la crescita percentuale delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti a maggio, sopra le stime. Ed è vero anche che ci sono persone che provano a chiedere qualcosa da fare subito, per esempio il presidente della Consob Savona, BPT, leggo sempre la sua divulgatore, sì, di BTP di guerra per rilanciare il paese, c'è anche un editoriale di Fabio Tamburini, del direttore del Sole 24 Ore, dice questo sì che è un bel provvedimento concreto, mentre invece dire ne parleremo in autunno sarà pure come i francesi, hai ragione, però io do ancora più ragione a Lina Palmerini, ho letto la nota che ha scritto sul Sole 24 Ore con grande interesse, perché dice tutti i rinvii di Conte, e devo dire che è una nota molto ironica, dice questo modo anche di usare quest'altra parola, recovery, per rimandare sempre la palla più avanti è pericolosa. Comunque oggi sarà, come sai, come si vede da tutti i giornali, il giorno degli industriali. A rischio 1 milione di posti, sono le parole di Bonomi, del nuovo presidente della Confindustria, che oggi si misura con il governo, il titolo l'ho letto sul Corriere della Sera, però c'è ovviamente un titolo importante, un articolo di Nicoletta Picchio anche sul Sole 24 Ore, e sai cosa ti dico? Ora non è più Salvini quello che Conte giudica il suo principale nemico, ma secondo me è Bonomi. Io vedo crescere nei confronti di Bonomi una tensione. E guarda, me ne rendo conto leggendo il Fatto Quotidiano, oggi c'è a pagina 3 questo titolo, un articolo di Salvatore Canova, Stati Generali tocca a Confindustria, oggi arriva Bonomi, sui soldi UE vuole dell'Unione Europea, vuole un posto a tale, ti pare? Insomma, sì. che strano modo di presentare un confronto. Conte dice sempre che lui è apertissimo, che vuole discutere con chiunque, presenta delle proposte concrete. E sempre sul Fatto Quotidiano, te lo dico solo, sarà a pagina 9, c'è un articolo di Alessandro Robecchi, Confindustria, liberisti coi soldi nostri e vittimisti all'arrembaggio. Mi sembra che il tono sia discretamente duro. Sia un tono di uno, siccome il giornale, questo giornale è molto consentaneo col Presidente del Consiglio, insomma mi sembra un modo di accogliere intervento di Bonomi agli Stati Generali, perché già non li avrà dettati Conte, però c'è qualcosa nell'aria dici tu. Nel frattempo, a livello mondiale, il numero di contagi ha raggiunto un livello molto 8 milioni, sì. gli 8 milioni che saranno, come ha detto il professor Galli, Massimo Galli, saranno doppio, triplo, insomma, diciamo quelli contati sono 8 milioni, e come vedi, ne abbiamo già parlato, in Cina, ma anche in India rispuntano focolai. Noi, i nostri giornali li trattano così come cose locali, però mi colpisce che per un focolaio che provoca 100-200 contagiati in un mercato cinese, a Pechino chiudano interi quartieri. Le scuole hanno deciso di chiudere. E significa mettere sotto chiave milioni di persone. Allora, o sono stupidi, così impressionabili, Oppure in genere in Cina succedono delle cose che da noi arrivano 2 o 3 mesi dopo, almeno così fu fra dicembre e gennaio, noi ce ne accorgemmo in un certo caos fra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Io presterei attenzione anche perché insieme a questi contagi c'è una destabilizzazione asiatica che fa molta impressione. Oggi sui giornali ci sono 2 notizie che colpiscono. Sì. Una che la Corea del Nord è tornata quasi in guerra, lo dico ironicamente, con la Corea del Sud, ha bombardato quell'edificio, quella stazione che serviva per fare i collegamenti quando fra Corea del Nord e Corea del Sud, e quando sembrava che i 2 regimi si tendessero la mano. E un altro che ci sono stati addirittura scontri di confine fra India e Cina. I cinesi hanno picchiato e ucciso a bastonate, ma neanche scontri con le armi da fuoco, degli indiani per la costruzione di una strada, una vicenda complicata, non mi va qui di parlare, una costruzione di una strada che porta a un aeroporto che è più alto del pianeta. E inquieta l'Asia, e quando inquieta l'Asia, in una situazione come questa, noi dovremmo dedicare più spazio e più attenzione, perché significa qualcosa. Qualcosa. Se battono le ali di una farfalla in Asia, capovolto da come si diceva tanti anni fa, e poi quel battito di ali della farfalla in Asia come può provocare un terremoto in Occidente, come abbiamo, in Europa, per quello che ci riguarda. Sì, come abbiamo visto fino adesso. Il traffico. Poi ritorniamo con la vicenda di Massimo Carminati ad aprire. Promo 24. Devi gestire il personale in smart working? Hai bisogno di software innovativi per automatizzare i processi aziendali? Gruppo Centropaghe, leader nei software e nei servizi per la gestione del personale e nell'innovazione tecnologica per il tuo business. Da sempre, al fianco di professionisti e aziende. Il partner giusto per la tua realtà, grazie a una suite completa di applicativi in service che rispondono e si adattano alle più svariate esigenze del mercato HR. Una procedura paghe nativa web di ultima generazione e app dedicate alle aziende e ai singoli dipendenti. Scopri la soluzione giusta per te. Centropaghe.it. Gruppo Centropaghe, un unico partner, 1000 risorse. Ma prima di passare alla vicenda Carminati, Paolo, non so se l'hai vista, pagina 11 di Libero, visto che citavi il professor Galli, ti leggo questo titolo del pezzo di Brunella Bolloli: il professor Galli, dopo il Covid, ora ferma il coito, l'infettivologo guiderà la task force per promuovere comportamenti virologicamente corretti dal punto di vista sessuale. E anche questo è uno spunto interessante. È un po' forzoso, loro stanno studiando i comportamenti amorosi, tra l'altro hanno scoperto perché stando a casa gli italiani hanno avuto un calo di libido impressionante, quindi vogliono capire perché, visto che avevano 2 o 3 mesi da stare a casa da soli, non hanno pensato all'amore. Esatto, bisogna riaccendere il desiderio degli italiani. Ascolta, io verrei alla vicenda di Carminati. Forse il giornale da prendere oggi è Il Messaggero, no? Il giornale di Roma, che ha 2 pagine su questo. Ed è il giornale più deluso, perché questa vicenda è una delle solite vicende italiane della giustizia italiana. Dunque, 2014 parte in gran pompa un'inchiesta, c'è la mafia anche a Roma, mafia capitale, mafia su, mafia giù, e Carminati viene messo in prigione. Poi ci sono i processi, e i processi ci dicono in uno che non è mafia, poi nella sentenza d'appello ricompare il metodo mafioso, poi la Cassazione c'è solo associazioni semplici. Sì. Poi lui sta in prigione, in carcere ad Oristano, ma la Cassazione, nonostante il Covid e nonostante i membri della Cassazione non abbiano fatto l'amore durante quei mesi, come ci attesta la ricerca del professor Galli, non hanno fatto niente. Insomma, ci hanno messo 8 mesi, hanno perso tempo, per cui oggi, ieri sera, anzi, come avete visto nell'immagine di telegiornale, Carminati per lo bello sono uscito eretto con una postura... anche in sostanza non hanno depositato le motivazioni in tempo. Figurati. E quindi i giornali oggi, il Criminale Nero, insomma, solita storia all'italiana, grandi annunci, è una questione che non riguarda solo la politica. Siamo tutti bravissimi, anche tu hai questo difetto, bravi ad annunciare, annunci e poi mi perdo quando si va al lato pratico. Ci mettono più di 8 mesi, potevano scrivere questa sentenza depositare le motivazioni in tempo, non l'hanno fatto, distratti da altro. C'è un'altra questione che troviamo sulle prime pagine dei giornali, anzi sulla prima pagina di un giornale, che è il quotidiano La Repubblica, il quale ha una lettera del segretario del PD Zingaretti sul tema e sulla vicenda di Giulio Regeni. Breve riassunto per gli ascoltatori che non avessero seguito fino adesso: la questione è la vendita di due fregate militari all'Egitto da una parte, dall'altra parte le ipotesi che sono circolate che con questo acquisto si volesse comprare il silenzio, per così dire, dell'Italia sul caso Regeni. Ora, alla vendita di queste due fregate, di fatto, Zingaretti, con questa lettera alla Repubblica, Paolo, mette un nuovo ostacolo, no? Sì, dice che il governo deve ottenere dall'Egitto subito il processo, se no non si fa nessun affare con l'Egitto. Ora, secondo me, Zingaretti è uno dei più grandi uomini politici del dopoguerra, assolutamente, però c'ha anche lui un difetto, che è parente dell'annuncite, pone degli ultimatum. Ho l'impressione, non ho sentito il tono ironico, però non c'è tono ironico. Lo dico, okay. Sei tu che sei per carità, mai lui pone degli ultimatum e dice: o si fa così oppure non si capisce mai qual è l'oppure. Comunque adesso dice che bisogna far fare all'Egitto il processo, che l'Egitto consente il processo, se no non vendiamo più le due fregate, però questo lui non lo dice esplicitamente. Comunque resta, l'ultimatum sospeso di Zingaretti. E a proposito di rapporti, più prudentemente sul Corriere della Sera, Ernesto Carriera Loggia propone di dedicare molti paesi italiani una strada a Regeni. Questo mi sembra più fattibile, ecco. Sì. L'ultimatum all'Egitto è più fattibile dedicare la strada, anche se è un atto puramente di testimonianza. A proposito di rapporti con i regimi, la questione Venezuela, che in parte resta aperta, il giornale ci apre, a dire il vero, sta passando già un filino sotto traccia, per quanto ieri abbiano aperto un'indagine. Sì, anche se è un'indagine contro ignoti, non si capisce né il reato. Io dubito, io lo sto dicendo dal primo momento, anche qui discutendolo con te, non capisco bene quale possa essere il reato, perché non era un partito nel 2000 ancora, o era un partito nel 2010, scusami, era molto in formazione il Movimento 5 Stelle, eravamo a ridosso del Bafo, non erano entrati in Parlamento. Però hanno aperto un'indagine, e aprire un'indagine significa lasciare sospesa, anche di questo abbiamo già parlato io e te, è come la storia dei rubli, dei soldi russi a Salvini. Si aprono le indagini, si lasciano sospese, tutti i giornali. E poi resta tutto là. Insomma, non lo so, adesso non vorrei che proprio questa volta essere smentito, ma insomma rischia di rimanere tutto là. Però... Volevo questa indagine, sì. Avrei voluto chiudere con la musa ispiratrice di Vasco Rossi, Silvia, della quale si scopre oggi, però Paolo non abbiamo nemmeno il tempo, forse sentir due note. Sotto un cuscino, mentre di fuori spunta il mattino. Scusa, ma allora io, visto che ci sono, sì, si scopre oggi, in realtà lei già 3 anni fa sul Resto del Carino, me lo ricordo, sì, c'era una identificazione di questa ragazza. Ma voglio capire, se tu sei una persona colta, chi era la ispiratrice di Dante Alighieri? Beatrice Portinari. Bravo. E quella di Petrarca? Laura De Noves. Dobbiamo chiudere, Paolo, però ti dico che non mi sono basato su pagina 19 del Quotidiano Nazionale. Grazie Paolo Mieri, ci sentiamo venerdì, ciao.